Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà per una nuova puntata di Overbooking in compagnia di Alvise. Un saluto e un ringraziamento a Giovanni che mi sostiene in regia e a Matteo che come sempre si occupa del coautoraggio di questo programma. Il libro di cui andremo a parlare questa sera si intitola La Resa, è l'ultima fatica letteraria di Monica Zornetta e è un libro che si occupa specificatamente della storia personale così come giudiziaria di Felice Maniero, ai più noto come Faccia d'Angelo o il boss della Mala del Benenta, su cui molto si è detto all'indomani di una serie di efferati crimini di cui lo stesso si è reso partecipe e protagonista, per passare poi al periodo della sua carcerazione e al periodo del famoso pentimento, il tanto agognato pentimento che viene descritto molto probabilmente nel migliore dei modi finora conosciuti proprio in questo La Resa di Monica Zornetta. Perché abbiamo scelto questo libro? Beh, c'è una finalità, se volete, in qualche modo di lucro, ossia c'è un evento che ci va di sponsorizzare e di sostenere, anzi lo faremo nel corso delle puntate che seguiranno, ossia presso le librerie Coop di San Donà di Piave avrà luogo un ciclo di eventi e di conferenze intitolato Il Piave, i Veneti e il Nord-Est, riflessioni, storie, dibattiti per conoscerci meglio. Appunto, il primo di questi dibattiti e di questi incontri è venerdì 27 maggio, quindi questo venerdì alle ore 18:30, e interverrà proprio Monica Zornetta. Monica Zornetta dialogherà con Lara Boccalon, redattrice tra l'altro del TG3. Quindi Monica Zornetta, appunto autrice di La Resa, questo libro su Felice Maniero, uscito per i saggi di Baldini e Castoldi proprio quest'anno. Una cosa ulteriormente sfiziosa di questo della puntata odierna è proprio il fatto che avremo a breve Monica in collegamento telefonico. Monica Zornetta, tra l'altro, non è la prima volta che si occupa di questo tema, ma ossia della criminalità situata, locata nel nord-est. Monica è una giornalista, scrive e ha scritto per il Gazzettino, tra l'altro è anche una collega di lavoro in qualche modo, perché è una corrispondente per RTL 102.5, se si può dire RTL 102.5 anche nella concorrenza, e dopodiché però ha già firmato due importanti saggi appunto sulla tematica della criminalità nord-est. Tra questi ci va di segnalare A casa nostra, 50 anni di mafia e criminalità in Veneto, assieme a Guerretta, edito nel 2006 da Dalai, e per Burr invece Terrore a nord-est, questa volta con Fasanella nel 2008. Quindi sicuramente non una persona alle prime armi, almeno su questo argomento, e quindi siamo felicissimi di avere Monica con noi qui ospite questa sera e poter andare a approfondire alcune delle tematiche che troviamo in questo La Resa. Prima di essere in collegamento con Monica e quindi procedere a parlare del saggio di questa sera, un breve intermezzo musicale. Due due. di RSD, dovremmo avere in collegamento telefonico con noi Monica Zornetta, l'autrice di La Resa, il libro di questa sera. Ci sei, Monica? Sì, ci sono. Buonasera. Ciao, grazie mille per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi. Allora, abbiamo iniziato brevemente, prima di questo intermezzo musicale, a parlare della tua ultima fatica letteraria, se non sbaglio, questo saggio sulla vita di Felice Maniero, e la prima domanda che mi verrebbe da fare, anche se mi rendo conto che sia banalissima, è cosa ti porta a scrivere di Felice Maniero? Dicevamo prima che tu ti sei già occupata di più volte anche di criminalità nel Nord-Est. Sì, certo. Che cosa mi porta? Ma una curiosità, una mia curiosità nel cercare di conoscere più a fondo il territorio in cui vivo attraverso uno sguardo della criminalità, che è uno sguardo in sostanza interessante e che mi permette anche poi di entrare più a fondo in quella che è stata anche la storia del Nord-Est, per esempio. Nel mio primo libro ho affrontato 50 anni di mafia e di criminalità in Veneto, quindi partendo dal fenomeno di banditismo che fin dal dopoguerra ha interessato la nostra regione, affrontando poi la piaga dei sequestri di persona, ma prima ancora dell'arrivo dei soggiornanti obbligati dal sud nelle nostre regioni, che hanno esportato un modo diverso di concepire il crimine, quindi un crimine di tipo organizzato. E insomma, nell'altro libro sono arrivata fino al 2006, l'ho scritto tra l'altro con Danilo Guerretta, un collega di Antenna 3 Nord-Est, e siamo arrivati fino al 2006. Successivamente sono stata contattata da un collega di Panorama, Giovanni Fasanella, per affrontare una tematica che per me era una novità ed era quella legata all'eversione, al terrorismo. Con lui infatti ho scritto un libro, un saggio, che si chiama Terrore a Nord-Est, uscito nel 2008 per la Burrizzoli. Ecco, da quel momento poi per me la strada, diciamo, si è abbastanza spianata, perché mi sono concentrata ancora su tematiche mafiose, collaborando ad un libro dei quaderni del premio Ilaria Alpi, tra l'altro curato da Roberto Morrione, il bravissimo collega e maestro anche di giornalismo che è deceduto pochi giorni fa. Lui ultimamente era capo di Libera Informazione. E poi questo libro che ho scritto su, come posso dire, su proposta, ecco, del mio editore Alessandro Dalai. È nato praticamente il giorno dopo la notizia della fine della sorveglianza speciale per Felice Maniero, quindi parlo dell'agosto del 2010, e da lì il mio editore appunto mi ha proposto di fare un instant book, quindi una cosa da realizzare veloce, come si dice in gergo, cotta e mangiata, sulla storia di Felice Maniero. Ecco, visto che i miei studi, diciamo così, sull'argomento c'erano, ho avuto modo proprio di realizzare un libro anche pieno di curiosità e di situazioni inedite. No, infatti, un libro assolutamente interessante e godibile, tra l'altro, perché a noi è piaciuto molto poi leggerlo. Volevo chiederti quali sono le fonti, in qualche modo, a cui hai attinto per la stesura del libro? Allora, per la stesura della Resa io mi sono avvalsa di moltissima documentazione appunto che già avevo, quindi sentenze, quindi atti giudiziari di vario tipo, informative di polizia, e poi naturalmente le interviste fatte sul campo, interviste ad ex sodali detenuti in qualche carcere italiano, interviste a persone che hanno conosciuto e frequentato lo stesso Felice Maniero e basta, in sostanza, fino all'ultima sentenza anche dello scorso anno, ecco, del primo grado del processo Rialto. Bene, proprio relativamente alle testimonianze, in qualche modo, che tu citi delle persone che sono venute a contatto con Maniero, io ho una mia piccola esperienza personale, se posso dirla, nel senso che ho avuto l'onore di conoscere Fortuna, che ai tempi era il sostituto procuratore a Venezia, e Ennio Fortuna, ovviamente, e mi diceva, si era occupato del caso Maniero in prima persona, e mi diceva che da sempre Maniero è stato, in qualche modo, per la criminalità veneta, secondo il suo modo di vedere, una specie di innovatore, più che altro per come ha concepito la criminalità. Ti rivedi in questo punto di vista, oppure? Assolutamente sì, mi rivedo, perché è stata l'intelligenza e il carisma criminale di Maniero sta proprio in questo, nel riunire tanti banditelli locali, nel metterli insieme, nell'organizzarsi. Felice Maniero, quando stava detenuto a Fossombrone, era entrato in contatto con mafiosi del calibro di Luciano Liggio, piuttosto che di Bagarella, e di tale Gaetano Fidanzati, che con la famiglia stava in soggiorno obbligato a Milano. Ecco, lui era giovanissimo, Felice Maniero, ma lì dentro, non curante appunto di essere in carcere, è riuscito lo stesso a mettere in piedi una grande struttura, in quel caso concentrata sul traffico della droga, ma lui, giovanissimo, è riuscito a mettersi insieme, ma non con un rapporto di sudditanza, bensì di totale collaborazione con un boss del calibro appunto di Gaetano Fidanzati. Questa sua intelligenza ha fatto sì che apprendesse anche con grande facilità dei metodi che non erano tipici della mafia veneta, perché appunto non esisteva prima di lui, ma erano metodi importati in Veneto da questi soggiornanti obbligati, oppure da dei mafiosi che, come abbiamo appena sentito, erano stati conosciuti da Maniero nelle carceri. Mi preme sottolineare una cosa, perché lo scorso sabato ho partecipato ad un convegno a Verona, al quale ha partecipato anche un sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Ecco, in quel caso c'è stato un piccolo confronto animato sul fatto che, secondo il sostituto procuratore, la mala del Brenta non era assolutamente mafia. Ecco, a me piace sottolineare che invece era mafia, l'ho sottolineato anche in quell'occasione, ed è stata l'unica associazione di stampo mafioso nata e cresciuta in territori non tradizionalmente interessati dalle mafie, cioè lontano dalla Campania, dalla Calabria, dalla Sicilia, o se vogliamo anche dalla Puglia. Questo è stato riconosciuto in tutti i tre gradi di giudizio, e Felice Maniero non è un banale criminale, ma un vero e proprio boss mafioso. E invece, andando un po' a investigare la figura, diciamo il lato più personale di quello che è Felice Maniero, che idea ti sei fatta della persona? Ma una persona estremamente intelligente, una persona molto furba, una persona che ha saputo muoversi in modo tale da ottenere i profitti che desiderava, di dire ciò che riteneva giusto dire, in modo tale da avere in cambio ciò che voleva. Ecco, ha detto ciò che ha voluto, non ha detto probabilmente ciò che non era il caso di dire, e tutto questo gli ha consentito di di soddisfare pienamente le richieste che lui ha avanzato allo Stato nel momento della collaborazione. Questo penso sia stato Maniero, e sia a tutt'oggi un personaggio così. Perché per l'immagine un po' che ricaviamo dai rotocalchi piuttosto che dalla televisione, eccetera, Maniero passa come in qualche modo il boss innamorato della bella vita, in qualche modo, ossia delle macchine veloci, dei soldi, delle donne, eccetera, eccetera. Pensi che sia stato questo a portarlo alla rovina, in qualche modo, a determinare la sua, tra virgolette, caduta e la sua resa a un certo punto, oppure è qualcos'altro? Beh, è stato, allora, tutto questa iconografia del boss senz'altro ha fatto sì che la sua fama aumentasse naturalmente, perché potere, belle donne, auto di grossa cilindrata, discoteche, loro andavano nelle discoteche e avevano i tavoli riservati, avevano le ragazze che facevano la fila per andare da lui. Questo non ha fatto che accrescere il prestigio. È un po' quello che ora sta accadendo in Sicilia con Matteo Messina Denaro, naturalmente, con le dovute differenze, ovvio. Ecco, io non parlerei tanto di caduta, perché in realtà non c'è stata alcuna caduta. Maniero non è caduto, o quantomeno è caduto in piedi, perché La resa, che è poi anche il titolo del libro, è una parola chiave che ha un significato preciso. Cioè, La resa sicuramente di maniera allo Stato, ma una resa da vincente, perché lui dice, ha detto ad un certo punto allo Stato, all'inizio degli anni 90, quando vedeva che le cose un po' per lui un po' traballavano, aveva capito che qualche suo sodale forse voleva prendere il suo posto, e allora ha fatto questo patto, questa trattativa con lo Stato, dicendo: io ti consegno la mia organizzazione. Ecco, questa può essere un po' la caduta, consegnare un'organizzazione, però in cambio tu Stato mi devi dare le cose che io ti chiedo, ovvero devi lasciar fuori dalle indagini, da tutto, i miei familiari, le persone a me più care, vicine, devi lasciarmi un patrimonio enorme che è stato quantificato in 250-300 miliardi di vecchie lire, quindi me lo devi lasciare, Stato, e qualche altra richiesta, tra cui pare, e questa è la prima volta che questa cosa appare, e appare in questo libro La resa, che è quella di non istituire una corte d'appello e una DDA a Verona. Verona da sempre crocevia del traffico internazionale della droga, non per niente era chiamata la Bangkok d'Italia. Ecco, lì lasciarla fuori dagli occhi lunghi degli inquirenti e dei controlli dello Stato. Quindi in qualche modo un contratto capestro, se vogliamo. Se vogliamo, sì. Se vogliamo è stato proprio così. E quanto c'è di Nord-Est nella storia di Maniero? C'è tantissimo di Nord-Est, perché è una storia nordestina, con degli ingredienti che sono possono essere anche degli ingredienti che ricordano comunque la storia della mafia tradizionale. Dentro ci sono l'omertà che ancora, per quanto se ne dica, è presente nei territori in cui agiva Felice Maniero, soprattutto nei territori in cui Felice Maniero è nato a livello fisicamente e anche dal punto di vista criminale, quindi l'omertà. Ci sono stati ingredienti quali il controllo del territorio, messo in atto da Felice Maniero fin dagli anni 70, quando lui era un giovane apprendista criminale, insieme a degli apprendisti criminali come lui, che giravano per le strade del Piovese a bordo di un'auto, sparando fuori dei finestrini contro lampioni di esercizi commerciali, proprio per intimorire la gente, e tanti altri proprio ingredienti che fanno sì che qui sia nata la sola associazione mafiosa italiana al di fuori appunto di quelle tradizionali, al di fuori di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta e della Camorra. Benissimo, noi ti ringraziamo moltissimo, Monica, per essere stata con noi, e ci vediamo quindi poi venerdì per la presentazione presso le librerie Coop di San Donà di Piave del tuo La resa, che, come ricordavi, è stato edito da Baldini Castoldi e Dalai quest'anno, e che potrete poi trovare non solo in tutte le librerie, ma appunto anche alle librerie Coop, appunto venerdì alle 6:30. Grazie ancora, Monica, e noi continuiamo ancora con un breve intermezzo musicale. Grazie a voi, arrivederci, grazie. Thank you. 102.2 Radio Sandonà, questo era People in the City, pezzo degli Air, pezzo ormai dannata ma sempre bellissimo. Torniamo a parlare della resa, l'ultima fatica letteraria di Monica Zornetta, che è il libro che ci tiene compagnia questa sera. Tra l'altro ringraziamo ancora moltissimo Monica per essere stata con noi e per averci parlato dell'ascesa e poi del declino e della resa in qualche modo di Felice Maniero, il protagonista del saggio di Monica Zornetta. Felice Maniero, ai più noto come il boss della mala del Brenta, di cui Monica ripercorre, ci diceva, utilizzando diverse fonti documentali e diverse interviste, di cui Monica appunto ripercorre la storia fin dalla giovinezza e quindi diciamo il suo battesimo criminale, passando poi per i numerosi arresti e poi per quello che è stata la sua confessione, appunto la resa, che è stata patteggiata in qualche modo con lo Stato italiano. E probabilmente il libro di Monica rappresenta ad oggi quello che è la documentazione più esaustiva appunto sulla resa di Felice Maniero. Diceva Monica prima, una resa pattuita a tutti gli effetti con lo Stato italiano, in cui Felice Maniero si può permettere di dettare delle condizioni riguardo a delle condizioni a tutti gli effetti contrattuali, ossia decidere cosa mettere dentro e cosa tenere fuori da questo patto che lui faceva con lo Stato italiano, a livello sia personale. Maniero decide ad esempio di non far coinvolgere la famiglia, e a livello di ciò che lui può dare, ossia le fila in qualche modo della propria organizzazione. Io vi ricordo che potete sempre intervenire in trasmissione per discutere e dibattere con noi i temi relativi al libro di questa sera, La resa di Monica Zornetta, ma comunque a tutti i libri di cui Overbooking si occupa, telefonando allo 0421 560993 o mandando un'email a radio@radiosandona.it. Questa puntata, come tutte le nostre precedenti, è sempre ascoltabile in streaming o scaricabile in podcast dal nostro blog, che è www.bloverbooking.wordpress.com. Qui potete trovare tutto quello che ruota intorno al programma Overbooking, quindi per ogni puntata vi forniamo una breve sintesi del libro di cui ci occupiamo e poi con una serie di post aggiornati periodicamente dal nostro sempre valido Matteo ci occupiamo di tenervi aggiornati su quelle che sono le manifestazioni manifestazioni e gli eventi a carattere letterario e culturale della nostra zona. Tra questi, appunto, Overbooking è partner di questo ciclo di incontri ed eventi organizzato dalle librerie Coop, che ci terrà compagnia per tutto il mese di giugno. Il primo appuntamento a cui non dovete assolutamente mancare è appunto quello con Monica Zornetta, venerdì 27 maggio alle ore 18:30 presso librerie Coop a San Donà di Piave, presso il centro Piave appunto. Ma seguiranno tutta una serie di altri incontri appunto per tutto il mese di giugno e fino a venerdì 1 luglio, di cui comunque troverete notizie appunto nel nostro blog www.bloverbooking.wordpress.com oppure sul sito di Radio Sandona www.radiosandona.it. Vi anticipo già che il secondo appuntamento di questo ciclo di incontri, che ha come diciamo macro tema il Nord-Est e tutto quanto è collegato alla storia del Nord-Est e del Piave più in particolare, il secondo incontro, dicevo, avrà luogo venerdì 10 giugno sempre alle ore 18:30 e qui anche qui sarà strutturato in forma di dibattito e avrà come protagonisti Adriano Favaro, Alessandro Marzio Magno, che ha scritto recentemente Piave, cronache di un fiume sacro, e Ulderico Bernardi, l'autore di Cara Piave, uscito recentemente per l'editrice di Treviso Santi 40. Di tutto questo e di molto altro ancora si parla appunto su www.bloverbooking.wordpress.com. Ora, finito questo ampio spazio pubblicitario e vendita di pentole più generalizzata, torniamo a parlare per un breve istante di questo La Resa di Monica Zornetta, un libro interessantissimo che ci sentiamo vivamente di consigliarvi per la lettura e, come si diceva, anche se volete incontrare Monica, che è stata disponibilissima con noi, 18:30 questo venerdì, Centro Piave, Libreria Coop. La Resa, un saggio breve, molto leggibile, molto accessibile per la lettura, ma esaustivo. Probabilmente raccoglie la storia in una forma molto semplice quanto si è detto sulla storia di Maniero. Bisogna ricordare che su Maniero si è detto molto, e si è detto molto in termini anche contrastanti. Lo stesso Maniero scrive una sua autobiografia ad un certo punto. Probabilmente questo libro, come dicevo, racchiude in sé quanto a oggi noi sappiamo su quello che è stato l'accordo tra Maniero e lo Stato italiano per la consegna del suo impero criminale, se così lo vogliamo chiamare. Tutto questo in una versione molto, in qualche modo, user friendly e molto accessibile, godibile e scorrevole per la letteratura. Tra l'altro il saggio è punteggiato da una serie di piccoli episodi anche in qualche modo divertenti o che comunque fanno riflettere, che rendono la lettura assolutamente impegnata ma leggera in qualche modo. In più, il libro, se questo non dovesse bastare, si fregia anche di una prefazione curata da Carlo Lucarelli, con cui Monica Zornetta collabora attivamente, appunto una prefazione di Carlo Lucarelli che invece affronta il tema più generale della criminalità organizzata. Detto questo, io e dopo questo monologo assolutamente interminabile, io vi chiedo scusa per avervi inondato di parole, mi taccio, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Un saluto e un ringraziamento a Giovanni, che mi ha tenuto in compagnia in regia questa sera, e a Matteo, che come sempre si occupa della nostra parte diciamo letteraria in qualche modo o culturale più in genere. Bene, detto questo, so di averlo messo in difficoltà, ora mi sento abbastanza felice di questa cosa. Vi saluto con Jean-Marie Machado e il suo trio jazz e ci vediamo la prossima settimana. Thank you.